avec des yeux d'opale, qui me fascinait, qui me fascinait. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Premetto che questa mattina l'argomento è molto crudo. Non mi tiro indietro di solito rispetto alla crudezza di alcune tematiche, ma questa mattina anche rispetto allo standard a cui siete abituati è abbastanza pesante. Però mi andava di parlarne. Mi andava di parlarne non per un particolare personale gusto per le fattispecie estreme, ma semplicemente perché di questo problema ne sento parlare sempre di più. Ne vedo parlare negli interstizi che normalmente passano inosservati agli osservatori più superficiali di quelle che sono alcune linee di tendenza della nostra società. La sto prendendo un po' larga perché voglio abituarvi e prepararvi. Molte volte sentiamo soltanto accennato questo problema, poi magari lo viviamo anche in famiglia, o magari sappiamo che qualcuno in famiglia vive qualcosa di simile, o magari facciamo finta di non vedere quello che è palesemente sotto i nostri occhi. Il problema riguarda una categoria di umanità che sommariamente e con una possibilità di misurazione che è sempre più labile, sempre più indefinita, definiremo i giovani. Il tema, l'argomento, il luogo di cui trattiamo è il corpo. I giovani legati al loro corpo molte volte stabiliscono un rapporto tale per cui il corpo diventa un ostaggio su cui si compiono alcune operazioni per dimostrare, certificare, urlare la propria esistenza o il proprio disagio. Questo accade anche per gli adulti, naturalmente. Oggi la prendo ancora alla larga, vedo un pezzo sulla stampa di Torino, sulla società, che parla di un allarme sempre più impellente rispetto al problema dell'anoressia. Il titolo è Allarme anoressia, la cura si trova dentro la famiglia, parla di opere, libri e centri di ascolto che stanno aprendo in Italia, perché è sin troppo facile, normale oggi vedere una famiglia, ci sono soprattutto ragazzine in età preadolescenziale o adolescenti fatte o addirittura ragazze o addirittura adulte, in cui c'è qualcosa che non funziona, qualcosa che non va. Se vi capita di andare a colazione a casa loro, ogni tanto la ragazza si alza e se ne va in bagno e naturalmente va a vomitare. Se capita di sentire rapporti, testimonianze, confidenze dei vostri figli, vi diranno che nel loro cerchio di amicizie c'è sempre una, due o più ragazze che hanno questo problema. Ne parlano tra di loro, la tutela, la salvaguardia di alcune caratteristiche del proprio corpo diventa indispensabile. Se andate in una palestra è ancora più facile ascoltare nelle attrezzi delle persone che stanno vicino a voi, se sono donne abbastanza giovani, parlare di diete, di cibo. Io poco giorni fa sentivo delle ragazze felici che hanno trovato una nuova dieta a base di acqua e insalata, erano degli scheletri e si guardavano allo specchio e dicevano guarda comincio a avere troppo grasso qui o guarda che sedere enorme, e continuavano a parlare di come mortificare ancora di più quella poca carne che rimaneva. L'anoressia è un problema di cui abbiamo già parlato e non vorrei toccare questa mattina. Questa mattina voglio andare oltre, voglio andare in qualcosa di più cruento, di molto meno noto, ma emergente perché supportato da alcune mode, da alcune particolari tendenze, da alcune giustificazioni che costituiscono le parole di passo di alcune raggruppamenti, tribù metropolitane, luoghi di incontro, musica, modo di vestirsi, punti di riferimento ideologici, artistici, culturali. Questa mattina, visto che il tema è molto attuale, visto che molti giovani scendono nelle piazze per protestare contro i tagli, parlerò dei giovani e dei tagli. Io litigavo molto con i miei genitori e pensavo che fosse meglio finirla. Poi ho iniziato una volta a tagliarmi, non so il perché. Era la cosa più orribile che potessi provare. Ogni volta che mi succedeva qualcosa di negativo, io dovevo assolutamente tagliarmi, anche solo per 2 minuti. Dovevo farlo perché non volevo rimanere sola. Avevo paura. Anche quando ero in classe. Non ascoltavo le lezioni per poter scrivere e cercare di sfogarmi su carta. Scrivevo tutto, ma alla fine delle lezioni mi chiudevo in bagno e succedeva ancora. Ho paura ad andare dal dottore perché magari si accorge. Però se ti scoprono è meglio, perché io prima di incontrare il mio ragazzo non mi sentivo amata. Ora è cambiato tutto. Non bisogna andare molto lontano, digitate in un motore ricerca, tagli, tagliarsi, alcune altre parole di passo, e vedrete che in molti forum, in molti luoghi specializzati nell'ascolto dei giovani e dei loro problemi, c'è il problema dei giovani che si tagliano. Si tagliano prima privatamente, poi collettivamente, o diventa una ritualità di gruppo, poi dicono che il tagliarsi faccia sprigionare alcune endorfine, quindi al tagliarsi attribuiscono un particolare senso di vigoria. Insomma, vi è mai capitato di vedere tracce strane addosso ai vostri ragazzi? Avete mai sentito dell'autolesionismo delle persone che si tagliano? 800 24 0024. Ho iniziato a tagliarmi un anno fa, poi ho smesso, ma poi ho sempre ricominciato. Ora sono 2 settimane che non mi taglio, ma ti confesso che ho una voglia esagerata, ho voglia di sentire quella punta sul mio polso, vedere scorrere quel sangue e sentirmi vivo e quasi libero. Non ce la faccio più ad andare avanti. Ho chiesto aiuto agli amici, volevano portarmi da uno psicologo della ASL. Ma guarda caso, la mia fortuna, quando sono andato l'ho trovata chiusa. Vorrei smetterla, ma non ce la faccio. Non voglio dare questa mattina delle letture particolarmente legate all'analisi del profondo, perché non ho gli strumenti per farlo. Questa mattina osservo, mi sembra di aver capito e di aver intuito che questo sia un fenomeno emergente. È una cosa poco detta, di cui si parla poco, perché una cosa è mangiare poco, una cosa è dimagrire, una cosa è fare un'operazione che in realtà è proclamata, è sottilmente vellicata, le riviste specializzate alla moda sono una rassegna di scheletri ambulanti, quindi l'anoressica, colei che non mangia, in fondo in parte può sentirsi giustificata di questa sua ricerca della figura scheletrica. La mamma stessa in fondo gli fa l'occhiolino, non vuole vedere, non vuole sapere o finge nulla, o anche lei in fondo mortifica il suo corpo con diete assurde, con anfetamine anoressizzanti. Quante signore sul far della menopausa si imbombano di anoressizzanti, improvvisamente le vedi, sembrano degli scheletri, e quei meravigliosi 3 palmi che segnavano la loro appartenenza al circolo delle donne perfette si riducono a un paio di dita. E questo perché? Perché evidentemente nell'area. Ma il taglio no, la gente che si taglia realmente deve proprio nascondersi, non esiste nessuna reale concreta giustificazione o tendenza per il taglio. Il taglio è puro autolesionismo, eppure ci sono persone che prendono la mette e si tagliano. Ciao, sono una ragazza di 17 anni. Fino ad un paio d'anni fa non pensavo fosse un vero e proprio problema. Credevo di potermi controllare. Diciamo che lo prendevo come un gioco. Mi taglio da quando ne avevo 13. Ho imparato a mascherare le cicatrici e a tagliarmi in posti dove è difficile notarlo. All'inguine, tra le dita. Lo faccio quando sono nervosa, arrabbiata. Finora è l'unica soluzione che ho trovato. Sentire male mi rilassa. 800 24 0024, so che questa mattina sarà molto difficile telefonare, partecipare, ma dare dei contributi può aiutare. Ancora se ne parla poco, anzi se ne parla quasi per niente, anzi viene quasi considerata una sorta di segnatura rituale di alcune tribù metropolitane come gli emo, come dei gruppi estremi a cui mai appartengono i nostri figli, mai appartengono i figli dei nostri amici, eppure i ragazzi si tagliano. Gianandrea Serafin, buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Gianandrea Serafin è un sociologo, un assistente sociale, una persona che lavora sul campo, segue i problemi sul territorio. Collabora con l'ONAP, che è l'Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici. Da 2 anni studia in particolare il fenomeno emo, ha scritto alcuni articoli su questo fenomeno, ma è un fenomeno su cui esiste pochissima letteratura. Gianandrea, cosa ne sai te della possibilità, del desiderio, del piacere che hanno molte persone di tagliarsi? Beh, si tratta sicuramente di un fenomeno particolare, estremamente complesso e variegato, e le chiavi di lettura sono molteplici. Si va dagli aspetti antropologico, sociali, quindi legati ai riti di passaggio, come parlava lei prima, agli aspetti sociali, quindi ad esempio l'appartenenza al gruppo, o agli aspetti psicologici e talvolta anche psicopatologici, quindi legati al discorso delle perversioni. Scusami, Gianandrea, tanto per entrare in tema, sì. I riti di passaggio hanno un senso in alcune società, soprattutto società a organizzazione tribale, in cui c'è un reale passaggio, si passa dalla fanciullezza all'età adulta attraverso l'adolescenza, per le femmine è il momento del menarca, per gli uomini è l'entrata nella pubertà, e normalmente si usava che si facessero tatuaggi, scarnificazioni tribali, particolari acconciature, si lanciassero con una liana legata alla caviglia da una torre, ma nella nostra società questi passaggi non sono così decisi e così socialmente segnati. Quindi è una sorta di autoritualità che assomiglia, non so, può avere a che fare con il piercing, con i tatuaggi, o è qualcosa che rientra più in un'area propriamente patologica? Ma io non parlerei sempre di patologia, parlerei più che altro di riti di iniziazione che riguardano la sfera gruppale, quindi l'appartenere a un certo gruppo. Se pensiamo ad esempio alle varie subculture o sottoculture emergenti, come quella gotica di cui ad esempio l'emo fa parte, possiamo considerare il fenomeno dell'autodistruzione, dell'autolesionismo come un'autoiniziazione, quindi un modo di mettersi in gioco e di ridiscutere i propri limiti corpori, di identità, di resistenza fisica e di percezione del dolore. Ecco, a te risulta, per quello che hai visto e conosciuto e seguito nel tuo lavoro, che sia proprio codificata questa ritualità? Esiste una metodologia, una sistematica maniera di compierla? Non è codificato ufficialmente, però non ufficialmente sì. Se pensiamo ad esempio ai nuovi strumenti tecnologici, come ad esempio internet e alle innumerevoli possibilità di YouTube, possiamo andare a vedere come vi siano moltissimi video girati proprio dagli stessi giovani, dagli stessi emo, che spiegano agli altri come tagliarsi, dove tagliarsi e come fare per non essere scoperti. Ad esempio, non so se si sa, ma l'uso dei polsini, i polsini che in genere vengono usati per le attività sportive, fanno parte del look emo e servono proprio per nascondere i tagli ai polsi. Allora, fermiamoci un secondo, vorrei far ascoltare una tranche di un'intervista che è stata trasmessa dalle Iene qualche tempo fa, che ha fatto un grande scalpore, soprattutto ha fatto palpitare molti genitori. Le Iene hanno intervistato una ragazzina emo, una ragazzina molto giovane, che racconta di alcuni rituali, soprattutto di promiscuità sessuale, di orge, di feste rituali in cui farebbero cose che i loro genitori non hanno mai immaginato in tutta la loro vita, ma in particolare mi fermerei all'aspetto che a noi più interessa, che è quello appunto dell'autolesionismo. Questa è Chiara, ha 15 anni e fino a qualche mese fa era un emo e partecipava a quasi tutti i raduni. Chiara, chi sono gli emo? Le emo sono dei ragazzi col ciuffo che si vestono di nero. Perché avete tutti un trucco così pesante? Il trucco rappresenta in pratica le lacrime. Le lacrime? Le lacrime cosa c'entrano con gli emo? L'emo è emotional, poi tristezza. Tristezza rappresenta lo stile, quindi si tagliano e fanno i finti depressi. Ma perché si tagliano? Si tagliano per depressione. Ma sono depressi davvero o lo fanno per moda? Fanno finta la maggior parte. Si dice che gli emo siano bisex, è vero? La maggior parte sì, fingono di essere bisex. Nel fingere arrivano anche a fare sesso? Sì, fanno sesso. E oltre al sesso cosa fanno durante il giorno? Vanno in giro, la maggior parte non va a scuola. Non vanno a scuola? Nessuno dei miei amici va a scuola. Corrado, buongiorno. Buongiorno. La mia esperienza è diversa rispetto a quella che stavo ascoltando ora per radio. Io ho un rapporto da 6 anni con una persona che per la difficoltà... Quanti anni ha questa persona? Ora ne ha 25. Quindi lei la conosce da quando ha 19 anni? Sì. Sì, 18 e poi da 19 anni da quando abbiamo cominciato. Cioè la sua fidanzata? Sì, mettiamola così. Vabbè, la sua compagna, la sua ragazza. Diciamo, è un rapporto complicato. Comunque, fondamentalmente... Come su Facebook, rapporto complicato c'è scritto. Una delle voci in cui è possibile attestare il proprio status è quello rapporto complicato, che vuol dire tutto e nulla. Però è così. L'esperienza che abbiamo vissuto noi è stata difficile e l'unica strategia che alla fine poi abbiamo sperimentando, abbiamo trovato perché smettesse questo bisogno. Perché si tagliava la sua ragazza? Sì, si tagliava nei momenti in cui era depressa, nei momenti in cui le cose non andavano come sarebbero dovute andare. Ma lo faceva di nascosto o palesemente lei sapeva questa cosa o l'ha scoperta? No, lo faceva quando lo diceva, in maniera che comunque io non potevo sul momento. Comunque la strategia che ha risolto, perlomeno spero, perché ormai è un anno e mezzo che questa cosa è successa, ogni volta che lo faceva lei poi me lo faceva ridire e dopo lo facevo anch'io. Vabbè, qual è il vantaggio, scusi? Vi tagliavate in due. Il vantaggio è che lei sentiva, mentre non era un problema il suo dolore per lei, diventava un problema il mio dolore. Io non avevo piacere in questa cosa. No, ho capito, lei per salvarla si sottoponeva anche lei al taglio. Ma che tipo di tagli erano, solo per capire? Non solo sui polsi. Dove? Ci sono anche cicatrici fonde, e ci sono sulle gambe, ci sono sulla pancia, ci sono... No, questo lo sa, perché glielo chiedo, non per sadismo radiofonico, perché vorrei dare dei segnali a chi ascolta e che magari ha dei figli, se comincia a vedere dei segni strani nelle loro gambe, sappia che non è che vanno per rovi o vanno per fratte, ecco. No. Grazie, Franco, buongiorno. Sì, buongiorno. Ascoltiamo. Siete? Sì, ascoltiamo. Sì, niente, io sul mio punto di vista sono tutte richieste di aiuto che fanno questi giovani. Ho visto anch'io parecchi ragazzi tagliarsi, oppure addirittura spegnersi le sigarette sui polsi. Ma in che occasione l'ha visti lei? Che mestiere fa? Beh, io praticamente frequento molto da sempre con questi giovani, diciamo, non è che sono vecchi, nemmeno io comunque. Ho visto fare a militare come forma di protesta, per esempio moltissimi che si punciavano le sigarette sul corpo, no? Anche magari per essere andati a casa. Dal mio punto di vista è un disagio psicologico, una richiesta di aiuto. Io ho fatto una scuola, fra l'altro, dove eravamo due ragazzi e c'erano 18 ragazze, no? Queste ragazze si incidevano, si tagliavano con il nome del fidanzato fino a uscire del sangue. Cioè, io che ero un ragazzo, non sembrava impossibile, non riuscivo a capire. Comunque per me sono tutte richieste di aiuto. E noi anche il discorso dell'IEMO, a questi giovani diamo tutto quello che loro non vogliono, anche questa forma esasperata di fare sesso che diventa una cosa, diciamo, un consumo. Sì, di ma fermiamoci al taglio, sentiamolo circoscriverla a una cosa di cui si parla molto poco, perché se la mettiamo nel calderone insieme a tutte le preoccupazioni che sollevano i giovani, alcuni comportamenti propri dei giovani, e poi non finiamo più. Grazie. Davide, buongiorno. Buongiorno. Carissimo, io sono un medico e lavoro in pronto soccorso. Lavoravo all'epoca di questa esperienza di cui volevo farvi cenno in provincia di Pesaro Urbino, precisamente a Fano. Lì noi abbiamo visto più volte un giovane adulto, non mi ricordo, intorno ai 35-40 anni, che si creava delle profondissime ferite. Mi facevano veramente impressione. La prima volta che io lo vidi addirittura mi chiese, credo avesse anche dei connotati masochistici, non so dire. Per cui entriamo in un'altra, però dottore, entriamo in un'altra area. Noi stiamo parlando di una ritualità diffusa fra giovani che si fanno dei tagli con delle lamette. Sì, questi erano tagli fatti con delle lamette. Non so se poi vado fuori argomento. Lui veniva a farsi suturare da lei. Veniva sì a farsi suturare da me e aggiungeva al dolore che si auto infliggeva con i tagli anche il dolore della sutura, che chiedeva senza anestesia. Noi solitamente facciamo un po' di anestesia locale con della lidocaina, lo chiedeva adducendo di essere allergico all'anestetico. Beh, era un vero masochista, di manuale, no? Da manuale. Penso sì, che sia una cosa folle. Penso che sia. Grazie, dottore. Un po' diversa. Gianandrea Serafin, che è un operatore. Rifacciamo la distinzione, se no rimettiamo nel calderone anche elementi che ci portano solo a far confusione. Sì, io ho seguito un pochettino queste esperienze. Posso dire, dalla mia esperienza personale e professionale, che ci sono vari aspetti da considerare nell'autolesionismo. Uno può essere quello della funzione anestetica dell'atto, quindi per ridurre lo stress e sedare le emozioni e le esperienze dolorose o negative. Un secondo aspetto, che è quello della ricerca del piacere attraverso il dolore, i cosiddetti sensation seekers o ricercatori di sensazioni. E un ulteriore aspetto, secondo me molto più problematico, è quello della curiosità. Molti giovani emo, infatti, arrivano a tagliarsi per curiosità, perché vedono i loro amici, i loro coetanei che lo fanno e quindi hanno questo bisogno di emulazione. E un quarto aspetto è quello del disagio e bisogno identitario, che è un po' il collante delle nuove subculture giovanili. Ecco, interessante, Gianandrea, perché abbiamo rifatto un punto, se no parliamo di quelle che sono dei comportamenti che hanno anche gli adulti, ma motivati da altre cose. Questo signore va al pronto soccorso, si taglia e si fa suturare, se che non vuole nemmeno anestesia, è un masochista, no, non mi sembra. Credo che in questo caso rientriamo nel discorso della patologia. Sì, infatti è un masochista patologico, perché è un comportamento. Io parlavo della dimensione gruppale giovanile. Ecco, questo è ben chiaro, così abbiamo definito. Sono dei ragazzi che per essere accettati o per accettarsi, per far parte di un gruppo, oltre a vestirsi in una certa maniera, oltre a ascoltare un certo tipo di musica, oltre a comportarsi, a vedersi in certi luoghi, darsi gli appuntamenti, hanno questa ritualità del taglio con la meta. 800 24 0024, a tra un istante dopo le informazioni dalla borsa. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Ciao a tutti, mi chiamo Gnoppio, ho 17 anni e sono emo. Allora, partendo dal presupposto che gli emo non sono depressi o non si tagliano le vene, bensì quelli là sono i poser che cercano di essere qualcosa che non sono. Gli emo sono coloro che ascoltano l'emocore, ovvero la musica proveniente dall'hard rock punk, nulla di più. Gli emo ascoltano gli Embrace, i Tuesday, i Rita Spring, ascoltano i Ballet for My Valentine, i Dirty Sanko to Mars. Allora, volevo soltanto dire questo, perché la gente mi ferma per strada, continua a dirmi, a insultarmi, facendomi: ma tu sei emo, ti tagli le vene? No, non me le taglio, informazione generale. Quindi che gente pure che mi lascia commenti su Netrog, sulle foto: tagliati le vene, ammazzati, che è la cosa che risulta meglio. Ma vi siete visti in faccia voi? Gli emo non sono nulla di tutto questo. Gli emo si vogliono bene, gli emo sono persone normali come voi, hanno solo uno stile diverso. È uno stile. Questa è una ragazza emo che lancia su YouTube la sua versione, il suo punto di vista rispetto al pregiudizio di quelli che le vedono per strada. Dici: tu sei emo e tu quindi ti tagli. Gianandrea Serafin, ricordo, sociologo, assistente sociale, collabora con l'ONAP, che è l'Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici, da molti anni studia proprio il fenomeno emo. Puoi definirmi in termini comprensibili e sintetici chi realmente sono gli emo e quanto sono legati al fenomeno dei tagli? E i tagli se li fanno soltanto gli emo o anche i ragazzi apparentemente e banalmente uguali a tutti gli altri? Allora, innanzitutto emo nasce, come ha detto la ragazza, dal genere musicale dell'emocore, quindi a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80. Con il tempo però questa è diventata una sottocultura e quindi da tendenza, da moda, legata all'ambito musicale, è passata anche ad altri aspetti, come ad esempio quello del look e alle derivazioni devianti come l'autolesionismo. Ti risulta che di queste feste durex che fanno gli emo, che hanno scoperto le Iene, che una volta ogni tanto si riuniscono in una sorta di orgiastica iniziazione? Mi risulta se esistono? Sì. Sì, se esistono e anche sono abbastanza frequenti. Quando ho iniziato a interessarmi del fenomeno emo, pensavo che fosse legato soltanto ad internet, quindi a questo nuovo strumento, questi nuovi strumenti virtuali. Ecco, noi a Roma, per far capire, li vediamo a Piazza del Popolo, sotto una delle due chiese si riuniscono, vedi questi ragazzi, in fondo non danno fastidio a nessuno, hanno questi capelli lunghi piastrati sulla faccia, sono pallidissimi, vestiti un po' con un genere romantico retro, e quelli sono gli emo. Sì, prego, vai avanti. Quello è, diciamo, lo stereotipo dell'emo, ma poi ci sono varie tipologie di emo. I poser, ad esempio, che sono stati citati dalla ragazza, sono quelli che seguono, diciamo, gli aspetti più modaioli. Ma poi ci sono, ad esempio, le sin queen, i sin king, che sono una nuova evoluzione, recentissima, in cui l'autolesionismo viene superato e gli aspetti emotivi sono legati soprattutto alle modificazioni corporee, come ad esempio un look particolare, non il vestirsi di nero ma vestirsi con colori sgargianti, e ad esempio l'usare parecchio i piercing e questo tipo di modificazioni corporee. Ecco, sentiamo Chiara. Chiara, buongiorno. Buongiorno. Senta, ecco, io volevo anche avanzare un'altra ipotesi, ho sentito l'esperto sugli emo, però gli emo sono profondamente esibizionisti, perché in fondo attirano, con questo look così funebre, attirano l'attenzione. A me è capitata di scoprire mia figlia che si è tagliata. Quanti anni ha sua figlia? 18 anni. E dunque intanto l'ho scoperta, nel senso che nel fare la lotta giocando ho sentito del ruvido e ho scoperto che si è tagliata. Naturalmente massimo allarme e ho seguito tutta la prassi, tipo portarla al pronto soccorso. Cioè, ma però... si veste da emo sua figlia? No, assolutamente, tra l'altro era questo un po', Nicoletti, che io la volevo un po' spostare dal fatto della moda, e secondo me non è pericolosa, perché insomma ci sarà qualcosa che controlla. Anche solo perché sono molte esibizioni. No, ma è anche divertente. A me piacciono i cosplayer. Potrebbe, le persone, esatto, che si travestono, è divertente. Ma io voglio parlare invece oggi di tagli. Esatto. Di persone che si tagliano. Di più. Il fatto di questo tagliarsi a me allarmerebbe di più di ma sua una figlia gli ha detto perché si taglia, come si taglia, allora, quando si taglia? Dato che era stata la prima cosa, e anche ha una grandissima voglia di parlarne, la cosa incredibile si è fatta scoprire, però dopo mi fa... Adesso la sto mandando dalla psicologa, ripeto, l'ho portata al pronto soccorso, che ha visto la reazione. Ma quanti tagli aveva? Beh, notevoli, tutto l'interno del braccio, un po' nascosti e un po' no. Però voglio dire, non è che dopo voleva nasconderli. Non so come spiegarle. Ha scoperto che c'è un altro piacere, per combattere il dolore c'è un'altra forma, oltre a tante altre, quella di tagliarsi, perché è come spostare, raccontava lei, un dolore da un altro punto di vista. È più sopportabile il dolore da un taglio che il dolore da un... aveva dei problemi affettivi con il suo ragazzino. Ah, ecco, si era lasciata con un ragazzo, quindi esatto, si tagliava. E ha fatto questa scoperta. Naturalmente io mi sono allarmata moltissimo, stiamo facendo un cammino e così. Adesso io devo vedere, io non posso far nulla, però continuamente, dato che ho la fortuna che ho una ragazzina che parla, ci domandiamo, potrà risuccedere, è stato... Ecco, una cosa mi serve a sapere, Chiara, questa sua figlia, le ha raccontato che questo è un comportamento rituale che fanno anche sue amiche? No, lei ha un profondo disprezzo. Come gli è venuto in mente? E difatti siamo sempre lì a girarci attorno, ci ritorniamo. Poi proprio è stata una cosa molto rituale. Ha preso la lametta, è nuova tra l'altro, l'ha disinfettata. Esistono ancora le lamette? Perché tutti si... Cioè sono difatti, anni che non vedo anche... più lamette in giro. Dove le trovate le lamette? Difatti mi chiede, ma a casa nostra non ci sono lamette. Io l'ultima lametta l'ho usata quando facevo il militare 20 anni fa. Ma pare che abbia ravanato in fondo, non so, quelli per i vocali. Insomma, anche quello c'è stata una premeditazione che ho tenuto in considerazione. Mi creda, Michaletti, la mia ipotesi è questa e dopo la lascio andare. È quella sei ancora per ascoltarla. Tu ragazzi sono completamente disinibiti, nel senso che possono fare tutto quello che voglio, soprattutto quelli un po' più che hanno la libertà assoluta. 18 anni è già grandina, Libertà mentale assoluta, può leggersi tutti i libri che vuole. Io vorrei avere la libertà mentale assoluta, per me sarebbe un punto di arrivo. Questo non coincide con il tagliarsi. Libertà intellettuale assoluta, Micheletti, nel senso che lei accende internet, io lavoro, lei ha la possibilità di muoversi dove vuole, e secondo me gli vengono delle idee, spero che non sia niente di patologico, naturalmente nel mio caso, però sperimentano tutto. È un esempio, altra e cosa nel bene e nel male. Tipo cos'altro, oltre tagliarsi? È una bimba molto inquieta. Bimba? È una donna? Cioè sì, 18 anni. una ragazza, una donna molto inquieta, probabilmente sperimenta un po' tutto. Però, per esempio, lei ama molto la poesia, non so se ha presente gli scapigliati, tutti i suicidi. Voglio dire... Non è che si tagliavano, però, tutto al più... qualche generazione poeti beveva l'assenzio, ma erano mode legate ad altri tempi. Non metterei insieme tutto. Un dato è certo, è interessante, lei ha scoperto sua figlia che si taglia, in qualche maniera la sta facendo seguire, perché uno può essere scapigliato a fare tutte le esperienze che vuole, avere le curiosità che vuole. Tagliarsi non credo che sia una cosa buona. Dottor Roberto Cavaliere, buongiorno. Buongiorno a voi. Psicologo, psicoterapeuta, anche lei si occupa di autolesionismo tra giovani. Distinguiamo i vari gradi, che abbiamo posto varie situazioni rispetto al tagliarsi. Mi sembra che la più attinente è l'esperienza di questa ultima signora che ha telefonato al problema di cui vogliamo parlare oggi. Sì, perfetto. Lei, dobbiamo distinguere appunto tre forme di autolesionismo. C'è quella grave, molto rara, che produce un danno irreversibile ad una parte del corpo, ad esempio un vero e proprio sfregio in viso, però questo è più da manuale di psichiatria ed è molto rara, fortunatamente. Poi abbiamo quella leggera, che è quella più diffusa, ed è quella proprio dell'esempio della signora, che è il tagliarsi, il bruciarsi, strapparsi i capelli, cioè il trovare un modo comunque di ferirsi. E poi ce n'è anche una molto latente, di cui si tratta poco, più subdola, che può prendere forma appunto, come dicevate prima, negli emo, un po' anche la tossicodipendenza, la bulimia, è un po' un territorio di confine dove l'autolesionismo si manifesta. Che è legato anche ai problemi alimentari, ho iniziato parlando dell'anoressia, ma molto capita molte volte che l'anoressica si tagli. Esatto, perfetto, infatti c'è questo perfezionismo un po' che accomuna sia l'anoressica che l'autolesionista. Allora, ci fermiamo soltanto un istante, dottore, perché diamo la linea alle informazioni del traffico, così poi lei può continuare a parlare senza che io la interrompa. 800 24 00 24, se avete un problema in famiglia, se avete sentito parlare di amici o amici dei vostri amici che si tagliano, beh, fatecelo sapere, per questa è la mattina per tirare fuori un problema di cui si parla veramente pochissimo. Tra un istante. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Due anni fa soffrivo molto per il mio ragazzo che mi maltrattava. Soffrivo anche per la mia situazione familiare, non molto felice. E così cominciai a cercare qualcosa che mi facesse concentrare sul dolore fisico e che anche per un istante mi facesse dimenticare il dolore interno che non mi abbandonava mai. Così cominciai a cercare disperatamente una lametta e mi tagliavo. Prima una volta ogni tanto, poi anche più volte al giorno. Ora sto con un ragazzo che mi vuole davvero bene, a cui ho raccontato questo problema, e mi aiuta giorno per giorno a superare tutto questo, anche se quando mi vengono le crisi, se non mi taglio, mi sembra di impazzire. 800 24 00 24, oggi parliamo della prassi del tagliarsi fra i giovani, ma anche fra chi è già uscito dall'adolescenza. Prassi abbastanza consolidata in alcuni gruppi identificabili, come abbiamo parlato, nelle subculture, come appunto quella degli emo, in cui è una pratica rituale di accettazione, di gratificazione, di avanzamento di gradi di prestigio all'interno dei gruppi, ma anche è facilmente riscontrabile molte volte in alcuni ragazzi particolarmente sensibili, particolarmente colpiti da alcune inadeguatezze sul piano sentimentale, sul piano relazionale, via dicendo, cominciano a tagliarsi. Lo fanno in luoghi del corpo nascosti, sempre meno nascosti, come ci ha detto un'ascoltatrice poco fa. Lo fanno poi a un certo punto per rendere partecipi soprattutto i familiari del loro problema. Abbiamo al telefono Giovanna. Giovanna, buongiorno. Buongiorno. Giovanna, lei ci ha scritto su Facebook poco fa, l'abbiamo subito ribeccata, che già parecchi anni fa, una decina di anni fa, quando lei andava a scuola, accadeva qualcosa del genere. Sì, c'è da dire che io ho fatto un liceo artistico, quindi era un ambiente un po' più trasgressivo. E soprattutto la frangia più estremista della mia classe erano 3-4 ragazze, anche un po' di più, che vabbè, facevano una vita alquanto molto vicina a quella degli emo, quindi molte feste a base di droghe, anche orgiastiche, e dopodiché in classe si tagliavano con il taglierino, comunque sia, ostentavano questa mania autodistruttiva, autolesionista che avevano. E loro lo facevano, cioè infatti le loro braccia avevano dei reticolati, si vedevano delle cicatrici, insomma. Ecco, di che età sta parlando? Liceo, quindi diciamo. Facevamo il secondo, terzo anno di liceo, 14-15 anni. 14-15 anni, una decina di anni fa, quindi già esisteva. Sì, sicuramente meno registrabile. Meno di oggi, penso che oggi sia diventata più, insomma, ecco, un po' una moda, lo è. Però il problema c'era anche all'epoca. Poi io devo dire, ho conosciuto anche persone che hanno avuto dei problemi più patologici al riguardo e che comunque sia si vergognano di questa necessità di tagliarsi. Ma necessità cosa corrisponde? Nell'esperienza che lei ha visto persone tagliarsi, ha un piacere mentre lo fanno? Ha un piacere nello stentarlo? No, allora questa ragazza che dico non si tagliava pubblicamente, cioè io penso che chi vive la necessità di tagliarsi come un disagio non lo faccia pubblicamente come facevano le mie compagne di classe. Lì c'è un bisogno proprio psicologico, è un po' come sì, sentirsi vivi, come diceva anche la testimonianza di prima, nel momento in cui ti tagli ti senti vivo, ma è anche un modo per attirare silenziosamente l'attenzione, sperare che qualcuno ti guardi così tanto da chiederti come mai hai queste cicatrici, cioè qualcuno che vada a notare questo tuo disagio. Comunque era facile vederle perché si stavano a braccia scoperte, si tagliavano, sì, abitualmente. C'era una sorta di scarnificazione, sì, sì, reale, visibile. Sì, poi ho conosciuto appunto questa ragazza che dopo i 20 anni, vergognandosi di queste cicatrici, ha iniziato a coprirle con dei tatuaggi, che ad ogni modo a livello di sensazione è molto simile al tagliarsi con il taglierino o con la lametta, perché il tatuaggio è un taglio e procura più o meno le stesse emozioni e anche le stesse, diciamo, la stessa produzione del cervello di adrenalina, di endorfina, di queste sensazioni alterate dal gesto, dal rituale. Ma io ho letto su internet che molti legano la pratica del tagliarsi all'incontro sessuale perché si sprigionerebbero, sì, delle sostanze che aumentano il piacere, almeno così ho letto. Mi guarderei bene a fare esperimenti in questa direzione. Dottor Roberto Cavaliere, psicologo e psicoterapeuta che si occupa di questa vicenda e di questo particolare tipo di autolesionismo, le risulta che lo facciano anche per una forma di esaltazione del piacere sessuale? Sicuramente, perché comunque c'è una tensione che accompagna l'atto precedente, l'autolesionismo. Come, ecco, non provateci voi che ascoltate, lo diciamo perché fa parte della storia di quello di cui stiamo parlando, c'è così poca letteratura, ma non consiglierei di provare a fare la stessa cosa, non portate il Black & Decker a letto insieme allo champagne, ecco. Sottolineare questo, anche il fatto prima, una delusione sentimentale che porta all'autolesionismo, non confondiamo il sintomo che è la punta di un iceberg. Sotto c'è tutto l'iceberg, allora probabilmente le motivazioni che più si vedono possono essere quelle di procurarsi un piacere sessuale, di chiamare l'attenzione, una delusione sentimentale. Ma cosa accade proprio a livello fisico quando uno si taglia? C'è uno scarico di tensione, sicuramente c'è uno scarico di tensione. Come il salasso che si faceva in antichità. Esatto, perfetto, sì. Però io non darei spiegazioni un po' troppo semplicistiche di condurla soltanto a un fattore. No, io esaminavo i casi che mi hanno semplicemente sottoposto. Ma io guardi, fino a penso un 50-60 anni fa ancora usava mettere le sanguisughe per togliere la tensione. Esatto, sì. Perfetto, però dietro a volte c'è spesso anche uno sfondo depressivo che fa parte anche dell'adolescenza. Per cui i motivi apparenti per cui lo si fa non sempre corrispondono ai motivi reali. Ripeto, alla fine è importante vedere tutto l'iceberg che si è sott'acqua, non solo quello che si vede la punta sopra acqua. Se io ho voluto semplicemente stamattina parlare di qualcosa di cui era nell'aria ma di cui nessuno parla molto volentieri. Solo per chiudere, Gian Andrea Serafin, mi puoi dare qualche numero dal tuo punto di vista? Non si possono fare percentuali, ma è un fenomeno di cui bisogna cominciare a occuparsi, o ancora, come dice il dottore, la punta di un iceberg di cui c'è pochissima rilevanza? Il problema è proprio questo, che non abbiamo dei dati oggettivi, cioè i dati sono molto limitati. Comunque io mi sento di dire che l'autolesionismo coinvolge all'incirca il 10-15% degli adolescenti. E addirittura leggevo che negli Stati Uniti e in Inghilterra vi sono dai 400 ai 1400 casi ogni 100.000 abitanti, quindi sono cifre abbastanza alte. E un altro problema è quello che riguarda le fasce d'età. che con il tempo si sono abbassate. Io ho avuto modo di seguire casi di ragazzini che a 10 anni praticano l'autolesionismo e che comunque rientrano dentro quel calderone che abbiamo detto prima essere l'emo, la subcultura. Grazie Raffin, grazie a Fabrizio Intonti, grazie a Valerio Rocchetti. Noi lasciamo il testimone alla collega Nicoletta Carbone. Se vogliamo entrare nell'aspetto patologico, clinico e medico, a noi semplicemente serviva di dare un'indicazione su un comportamento sociale che è sempre più emergente, si sente dire ma se ne legge veramente molto poco. A domani. D'un tourbillon la vie, on a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés.